cartellone di Elisabetta Fiorito. Che te sei giocato, Manzotin? Con il numero uno, Monaco. A pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello. Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare. Allora, che te sei giocato? O sole mio, ma che te frega a te? Te voglio bene, te voglio aiutare. Te voglio dare un cavallo buono. Gioca dei Paganini, quello che c'ha qua la macchia bianca sulla fronte. Guarda che Paganini, non c'ha nessuna macchia bianca sulla fronte. Non vedi questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza. Scommetti 20.000 che manco ti ricordi di che colore ti sei messa la cravatta stamattina. Au, mi tocca a fare questo furto. E dai, scommetti, te che colore ce l'hai? Io porto una cravatta sola, gialla russa, come a Roma. Hai perso, Manzotin, non te la sei messa la cravatta stamattina. Sgaccia. Buongiorno, buongiorno. E avete riconosciuto Febbre da cavallo, un film degli anni 70 che ci ha accompagnato per il sogno di una vita migliore e che era interpretato da Enrico Montesano nella parte del Pomata, come si dice a Roma. A Roma ognuno ha i soprannomi particolari. E Enrico Montesano è in carne e ossa in questi giorni al Teatro Sistina di Roma con Sogno di Famiglia per un altro sogno, e negli anni 2000 il sogno è diventato la televisione. Buongiorno Enrico. Buongiorno, grazie, come va? Come va? Allora, tutto bene. Tutto bene. Che cosa succede sul palcoscenico del Teatro Sistina? Che non scommettete più sui cavalli, ma scommettete sulla televisione? No, scommettiamo su noi stessi, io penso che quella è la scommessa, scommettiamo su noi esseri umani, su noi spettatori, su noi telespettatori. È l'avventura della famiglia Torelli, che è una famiglia più che altro normale, e poi invece che succede? Viene catapultata in un reality show? Sì. Sì, sì, esatto. Normale è una cosa bella, è una famiglia normale. Io credo che in Italia di famiglie normali ce ne siano tante, e spesso un po' abbandonata la famiglia, che si trova da sola a combattere con tante cose, insomma, no? È una delle istituzioni cardine della società, è inutile che ci giriamo intorno. Questa famiglia partecipa a un gioco reality per realizzare un sogno, e questo ci dà lo spunto per raccontare un po' la realtà di oggi. La realtà di oggi, soprattutto, noi sappiamo che sta arrivando mercoledì prossimo l'Isola dei Famosi, cioè torna il reality. Quindi noi... anche la famiglia Torelli, che cosa fa in questo reality? Perché so che a un certo punto siete tutti vi volete bene, volemo se bene, poi però quando inizia il reality show cominciate un po' a volervi male. No, la famiglia è certo che è una famiglia tradizionale italiana, ripeto, come tante ce ne sono, che fondata sul mutuo soccorso, sull'affetto reciproco, no? Perché poi diciamo che il più grande consultorio è la famiglia, la più grande assistenza sanitaria ce la dà la famiglia. Questa famiglia pensa di utilizzare i meccanismi televisivi a proprio vantaggio, forte di questi sentimenti che li legano profondi, no? Invece il meccanismo televisivo è cinico, è baro, come si dice, come il destino, e trita tutto, e quindi scricchiola un po' la famiglia. Sul piano della commedia però, perché noi, come dicevano i latini e quelli che hanno studiato, castigat ridendo mores, no? Cioè, non so che vuol dire, però mi hanno detto di questa frase latina che piace un sacco, e quindi noi cerchiamo di far ridere mandando un piccolo messaggio, insomma. Quello di non credere troppo alla televisione. No, abbiamo anche, in generale, la canzone finale credo che sia un compendio di tutta la nostra commedia. Basta dire sempre sì a qualunque oscenità, basta dire sempre sì anche quando non ti va. Allora aspetti un attimo Enrico Montesano, che ascoltiamo un brano della canzone, proprio un pezzettino della canzone, così la commentiamo insieme. Basta dire sempre sì a qualunque oscenità, dai un calcio ai falsi sogni e ritorna alla realtà, perché il senso della vita alla fine è questo qua, di sapere rifiutare tutto quel che non ti va. Ecco, insomma, è quello che diceva, basta falsità. Ma certo, la nostra è anche un po' una favola, se vogliamo, per dare un minimo di speranza, come ci insegnava il grande Pietro Garinei, il mio maestro, insomma. e il pubblico deve uscire da teatro con un minimo di fiducia e di speranza. E dipende da noi. La sua domanda, Elisabetta, era carina all'inizio, cioè da chi dipende? Dipende da noi, confidiamo, come mi ha detto, abbiamo fiducia in noi stessi, insomma, e siamo noi che dobbiamo alle volte dire no. Qualche no, questo non lo voglio fare, oppure spengo la televisione perché questa cosa non mi piace, anche se la nostra commedia non è contro la televisione, il mezzo è straordinario, è contro il messaggio che spesso si veicola perché c'è un interesse particolare, no? Un interesse economico, pratico, politico, però forse non sempre coincide con gli interessi degli spettatori. Enrico Montesano è il capofamiglia. Io sì, mi chiamo Nino e sono il capofamiglia. E qual è, che mestiere fa Nino? Faccio il giornalaio, quindi vivo in mezzo alle notizie. E quindi è praticamente agganciato con la realtà, sa tutto quanto dell'Auditel, dei dati d'ascolto, sì, dei reality show. È un giornalaio, vive in mezzo alla parola scritta, al cartaceo, come si dice oggi, quindi è informato, legge, sta attento, sta a contatto con i clienti. Questo ci dà la possibilità di fare battute sulla realtà di oggi, di dire un po' com'è la società nostra, di denunciare soprattutto una commedia che denuncia un po' l'invadenza della televisione, lo strapotere della televisione. Io poco fa i miei stavano vedendo una cosa, i miei figli, la mia famiglia, e si vedeva una trasmissione televisiva che parlava di un'altra trasmissione televisiva. Quelli che hanno studiato dicono è autoreferenziale. Non so che vuol dire, manco questo, ma mi piace, ce lo metto. Qual è il ruolo a teatro che ha più nostalgia? Visto che ha citato Garinè e Giovannini, noi ci ricordiamo questo famoso Rugantino. Ma io Rugantino è nel mio cuore, perché Garinè e Giovannini mi chiamarono per farmi fare Rugantino dopo 10 anni, nel 76 lo rifacemmo. Però sono molto legato anche a Bravo, che Pietro Garinè mi fece fare, e per me è stata, e credo che sia stata proprio nel panorama teatrale italiano, una novità poi ampiamente e ripetutamente rifatta, diciamo, lo schema fu riproposto anche da altri attori, insomma, da altre compagnie. Invece qui si balla, si canta, si riflette, in Sogno di famiglia. Sì, è Rita Sala del Messaggero mi ha detto una cosa molto carina, mi ha fatto un complimento che mi ha lusingato, dice, cioè, ricorda per certi versi una chiave un po' plautina, cioè dice riuscite a fare la piccola morale come faceva Plauto, però facendo divertire. Io ho detto ma l'accostamento mi riempie di gioia, mi lusinga, poi detto da una grande critica teatrale, una donna esperta di teatro, una giornalista che conosce la materia, insomma. Allora, fino al 21 marzo siete al Teatro Sistina, poi andate in tournée oppure rimanete a Roma? No, poi dopo dobbiamo fare un altro due piazze, ma insomma noi l'abbiamo già fatta, siamo arrivati a Roma dopo circa 35 repliche, abbiamo già fatto quindi un piccolo giro e grandissimo successo, perché abbiamo sentito gli applausi di sottofondo mentre Enrico Montesano cantava in Un sogno di famiglia, lo ricordiamo, al Teatro Sistina di Roma fino al 21 marzo. Grazie Enrico Montesano. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Io sì che ce l'ho un sogno, quella bella villa che vedo sempre uscendo col giardino, e chi se la può permettere? Perché un sogno, prima per realizzare un sogno stavi una vita a faticare, adesso i sogni che fai tu li realizza la TV, se vinci non aspetti più. Reality show, io il sogno ce l'ho, ma che figata questa pensata. Vincesi casa, vincesi casa, come manna dal cielo vien giù, la fortuna ti dà del tu. Una casa da abitare senza mutare, che nessuna graduatoria, qualsivoglia sanatoria, mai avrebbe potuto assegnare a me. Perciò, reality show, io il sogno ce l'ho, ma che figata questa pensata. Vincesi casa, vincesi casa, come manna dal cielo vien giù, la fortuna ti dà del tu, ti dà del tu. reality show. Io il sogno ce l'ho, ma che figata questa pensata. Vince si casa. Cartellone. Mi raccomando, spruzzate la lacca, il gel, la brillantina sui vostri capelli, perché Hairspray è in scena durante questo weekend a Messina al Teatro Vittorio Emanuele. E soprattutto ricordate che qualche chilo in più non ha mai fatto male a nessuno, perché Hairspray era il musical, è il musical dei capelli fonati, ma è anche il musical delle donne un po' in carne. E come donna in carne nel ruolo che è stato sugli schermi di John Travolta c'è Stefano Masciarelli, che interpreta appunto Emma. Buongiorno Stefano. Buongiorno da Messina, questo sabato strepitoso qui. Una cornice di sole, non so voi da dove in trasmissione vedete il sole? No, guarda, qui a Roma il tempo è un po' così, ballerino, ma però allora so che le temperature si sono alzate. Alzate, e la primavera sta arrivando, e quindi Hairspray è il musical, no, della primavera. È il musical della primavera, è una ventata degli anni 60 dove tra l'altro c'è anche qualche rimpianto, a mio avviso, nel senso che secondo me insomma quegli anni erano molto più belli rispetto a questi. C'era più spensieratezza, c'era una musica addirittura diversa, più orecchiabile. Però noi ogni sera ci immergiamo in questi anni 60 e insomma per qualche ora siamo tornati indietro. Per qualche ora siete tornati indietro, ti sento nel traffico siciliano, molto intenso. Nel traffico siciliano, sì, questa mattina che stiamo andando a fare delle... stiamo andando in un centro anziani. Ah, ecco. Così mi abituo all'idea fra qualche anno. No, oppure aiuti le persone di una certa età. Senti Stefano, allora tu appari in palcoscenico vestito da donna. La prima volta che interpreti una donna? Sì, la prima volta. Una donna poi insomma, per la trasformazione, sai, questo ruolo è tosto perché ci vogliono 2 ore per la trasformazione. Entro in un involucro che pesa 6 kg, ho 2 protesi di tette che equivalgono a una nona, insomma è un fardello che mi porto appresso per cantare e ballare, è tosta, però c'è questo grosso successo, il pubblico impazzisce, si diverte, balla, canta con noi, quindi è quello che conta insomma per un attore, soprattutto il riscatto di chi ha qualche chilo in più, insomma ecco. Una storia che verte sull'integrazione e dà modo a chi ha qualche chilo in più di non vergognarsi, ma di uscire di casa, di vivere la vita, di affrontarla come tutti gli altri, perché siamo tutti uguali. Ecco, questo alla fine è il messaggio, e tra l'altro è un messaggio che addirittura vince su una bella ragazza bionda con gli occhi azzurri, tutta fisicata, mentre invece mia figlia vince su lei perché ha delle doti canore non indifferenti, e quindi non c'è discriminazione. Però. Allora, Hairspray, stasera abbiamo detto a Messina, poi dal 22 febbraio a Trapani, 27 e 28 a Cosenza e poi per finire l'11 aprile a Trento. Ciao Stefano. Grazie, in bocca al lupo, buon sabato, ciao, buon ciao. Weekend. E adesso andiamo al Teatro Sala Umberto, dove Flavio Bucci è in scena insieme a Giorgio Carminati in Sarto per Signora, una pièce di Georges Feydeau. Allora Giorgio, buongiorno, benvenuto a Cartellone, siete in scena per le ultime repliche fino al 28 febbraio. Di che cosa parla questa pièce? La pièce di Feydeau non è altro che un orologio svizzero, nonostante l'autore sia francese. Un orologio svizzero nel senso che è fatto di piccole combinazioni, piccoli inganni che si intrecciano in una perfezione unica, direi, nel senso che era un genio in queste cose, Feydeau. Il testo è fatto di tradimenti desiderati, ma purtroppo mai consumati, mai realizzati, dove c'è questo maggiordomo che sarei io, il cameriere Stefano, che mette il becco dappertutto, combina anche qualche pasticcio, e Moulinot, che sarebbe il protagonista, interpretato da Flavio Bucci, non è altro che un viveur, no? Che oggi non esistono più, un viveur che medico, che si mette con le sue pazienti, tenta di approcciare le sue pazienti in qualche modo, ma entra il marito, entra una vecchia amante, che probabilmente era una prostituta del Boulevard Saint-Germain, come viene detto, poi c'è un affittacamere che affitta camere per le scappatelle varie, dove queste scappatelle non si realizzeranno mai perché manca la porta è rotta, quindi entra ed esce chiunque. Ecco, questo, e qui volevo venire, no, a parlare della struttura delle pièce di Feydeau, che sono pièce molto strutturate, dove si aprono e si chiudono porte, si entra gente in scena, poi esce, insomma è tutto quanto molto, come dici te, un orologio svizzero. Alle volte si privilegia talmente tanto la struttura che viene quasi messo in secondo piano il contenuto. Esatto, direi proprio che è così, nel senso che è un meccanismo che sta in piedi anche solo con i movimenti, nel senso che queste entrate, queste uscite sottolineano tutti gli inganni o gli intrighi o le confusioni che si creano durante la situazione. Chiaramente il testo, le risate, le battute sono scritte talmente bene che le risate e gli applausi del pubblico, se vengono a scena aperta, sono stati scritti da Feydeau. Non resta che rileggere il testo e cercare di interpretarlo al meglio, voglio dire questo. Insomma, allora, per riscoprire un grandissimo drammaturgo francese, Georges Feydeau, e per vedere due grandi attori italiani contemporanei, Giorgio Garminati e Flavio Bucci, basta andare al Teatro Sala Umberto di Roma fino al 28 febbraio, Sarto per Signora. Per Signora. È un piccolo punto. Io non sono altro che un attore, uno scritturato chiaramente, ma ci sono altri attori in compagnia come Roberto Della Casa, Diana De Toni, Anna Cianca, Monica Berardinelli. Insomma, Bella, è bello Anna strutturato. Casarini. È ben strutturata la compagnia, insomma, direi che il tutto funziona giustamente a orologeria, come si diceva prima, come un orologio svizzero. Ciao Giorgio! Vi ringrazio, ciao! Ho notato delle inesattezze anche nel capitolo 74esimo. La battaglia di Verdun. Le trincee non erano come le descrive lei. Questo è troppo! Non c'è diritto, lo dice! Il diritto che mi dà l'essermi trovata là. Ah, dunque lei si trovava anche lì. E magari mi dirà di aver assistito al bombardamento di Guernica? E se non l'ha fatto sotto il cavallo imbizzarrito. Ma da dove è scappata lei? Ma che diavolo è lei? Sono la tartaruga di Darwin. Prego. E Charlie mi ha anche fatto un disegno. Lo può vedere nel capitolo 7 del libro L'origine delle specie. Mi ha trovato Charlie. Non ti preoccupare, ci penso io. Caro Harry, il più grande naturalista della storia non sapeva distinguere fra una tartaruga maschio e una tartaruga femmina. Siamo al Teatro Vittoria, il teatro di testaccio di Roma, però che in questo particolare momento propone un testo invece un po' internazionale, di respiro addirittura scientifico, diciamolo, no? Darwin, la tartaruga di Darwin. Allora, il fondatore della scienza moderna viene visto e rivisitato però in chiave anche abbastanza surreale. Stefano Messina cura la regia, noi siamo qui seduti, fra poco inizia lo spettacolo. Uno spettacolo di chi e perché avete scelto questo spettacolo? Allora, l'autore è uno degli autori più interessanti del panorama europeo, anche mondiale, perché in questo momento è rappresentato dalla Corea alla Francia, in America. Questa è una prima assoluta per l'Italia, la tartaruga di Darwin. L'autore si chiama Juan Mayorga, è spagnolo. Perché la scelta del testo? Perché leggendo tra centinaia di testi, no, che si leggono per scegliere uno spettacolo, Mi è sembrato semplicemente il più interessante. Un testo che parla del contemporaneo, parla del mondo di oggi, lo fa con, anche in modo spietato, però lo fa con un'idea teatrale molto forte, che è quello di far raccontare gli ultimi 200 anni della storia, della moderna storia d'Europa, ad un essere molto particolare, perché è una tartaruga che nell'arco di 200 anni si è evoluta in donna, secondo quelle che sono le teorie dell'evoluzione darwiniana. Chiaramente di scientifico qui c'è poco, perché chiaramente non è possibile che una donna, che una tartaruga, scusate, si trasformi in donna, però lui prende a pretesto l'evoluzione darwiniana, per cui sottoposta a una evoluzione di tipo esponenziale, gli crescono le gambe nel ghetto. Quando arriva a Varsavia durante il rastrellamento degli ebrei per salvare un bambino, gli esce per la prima volta la sua prima parola, che è un no, per cui si oppone e salva questo bambino. Quando sotto il bombardamento di Guernica in Spagna, siccome la lotta per la sopravvivenza è quella che non so, la spinge, no? La fa scappare dal bombardamento, e quindi gli escono fuori, trova le gambe. E quindi, appunto, questi sono gli stimoli straordinari che lei prova in questi anni, e questi stimoli straordinari la portano ad una evoluzione che è contraria a quella kafkiana della metamorfosi, dove lì c'è un uomo che diventa animale, qui è un animale che diventa donna, però è una donna che alla fine decide di scappare dalla società civile e vuole tornare a morire lì da dove è partita, cioè dalle isole Galapagos, perché è decisamente stanca. La donna la interpreta Viviana Tognolo, che è una caposaldo, Fondatrice la lei. fondatrice della Di attori compagnia e tecnici. Attori e Tecnici, però a un certo punto ritorna alle Galapagos, ma le Galapagos di oggi non sono più le Galapagos del Beagle, del famoso viaggio di Darwin. No, però forse insomma, gli assomigliano sicuramente un po' di più di come so, era invece 100 anni fa questa città. Però insomma, questo lei non lo sa. La tartaruga di Darwin in scena al Teatro Vittoria di Roma, fino a quando? Fino al 28 di febbraio. Gli attori sono, oltre a Viviana Tognolo, sono Carlo Lizzani, Annalisa Di Nola e Massimiliano Franciosa. In tempo di guerra essere tartarughe è molto pericoloso, perché la gente è affamata e si mangia qualunque cosa. Ma per me era più pericoloso essere vecchia a causa di questo becco, che qualcuno poteva prendere per raso ebraico. Essere tartaruga è più pericoloso che essere persona, ma essere ebreo è più pericoloso che essere tartaruga. Il giorno in cui ero vestita da vecchia, i soldati mi fermano, mi mettono in un treno bestiame insieme a tanta altra gente. E meno male mi viene in mente di buttarmi per terra e ritornare al mio essere tartaruga. In cui la lentezza era importantissima, come descrive il famoso Milan Kundera in uno dei romanzi che ha scritto recentemente. E in questa lentezza, nella lentezza dei tempi antichi, c'era anche la possibilità di essere un po' romantici, cosa che ai giorni nostri con la fretta sembra che non ci sia più. E c'è però anche oggi questo ritorno, questa voglia. E dal 17 al 27 febbraio, quindi da questa settimana, si svolge un festival molto importante al Palazzetto Bruzzani di Venezia, il festival Les Salons Romantiques. Buongiorno Rosa Giglio, responsabile della comunicazione e produzione del Palazzetto. Buongiorno. Allora, che cosa intendete fare con questo romanticismo, questa musica romantique? Allora, premetto che appunto il festival di cui lei ha dato annuncio è organizzato dal Palazzetto Bruzzane Centre de Musique Romantique Française, quindi un centro per la valorizzazione della musica romantica francese che ha inaugurato lo scorso mese di ottobre qui a Venezia, accanto alla Chiesa dei Frari, è la nostra sede, e che per volontà di Madame Nicole Bru, che è la nostra mecenate, che ha permesso che questo centro aprisse le sue porte al pubblico, tende appunto alla valorizzazione di quel repertorio musicale che è stato composto in Francia tra il 1780 e il 1920 e che si è arricchito nel corso degli anni di una serie di rapporti estremamente fecondi e fertili con l'Italia, quindi che è cresciuto in grande osmosi fino con l'Italia. Il Palazzetto Brutani organizza ogni stagione 3 festival, di cui uno tra ottobre e novembre, uno a febbraio, che è appunto quello che è inaugurato il 17 di febbraio, che si svolgerà qui al palazzetto sino al 27, e un altro in primavera tra aprile e maggio. Questo festival, appunto, che è in corso, il Salon Romantique, ovvero il Salotto Romantico, è una serie di piccoli concerti di musica da camera che si svolgono all'interno della nostra sala. Il palazzetto è un casino della fine del 600, il cui cuore è una sala da concerto che può accogliere un centinaio di persone, quindi veramente l'atmosfera ideale per un concerto di musica da camera, e che appunto avrà il piacere di ospitare formazioni cameristiche, quartetti, oppure appunto duetti di pianisti e cantanti che si sono anche prodotte durante lo scorso concerto, e così, insomma, vedo che è un appuntamento ciccioso, diciamo. Allora, lei ha descritto un'atmosfera particolare, appunto questa riproduzione di questo casino del 1600, insomma. Sì, della fine del 1600. Della fine del 1600. Allora, per ritornare a un'atmosfera appunto di lentezza, tranquillità, al Festival Le Salon Romantique a Venezia, al Palazzetto Bruzzane, questa sera fino al 27 febbraio, musica da camera, abbiamo sentito Musique Romantique Française, grazie a Rosa Giglio. Ricordiamo l'appuntamento a che ora è? 20:30. Alle 20:30. Sentiamo allora un altro brano. E rimaniamo sulla costa orientale italiana, perché da Venezia andiamo a Bari. La Puglia risponde a Rosarno con la Primavera dei Diritti, una maratona culturale che trasformerà per 11 giorni fino al 28 febbraio Bari, il Teatro Cursa al Santa Lucia e vari altri spazi regionali in un laboratorio di buone pratiche per la riscrittura di un nuovo alfabeto delle culture e per la tutela dei diritti civili universali. Insomma, programma molto molto importante dal punto di vista del teatro civile o comunque dell'arte che si interroga sulla società. Clarissa Veronica è la curatrice della sezione teatro e danza della Primavera dei Diritti. Buongiorno Clarissa, che cosa avete in programma? Perché questo involucro è bello sostanzioso. Sì, infatti è un contenitore generale quello della Primavera dei Diritti, che per la prima volta mette a disposizione della gente la possibilità di intersecare diversi contenuti, diversi linguaggi, sicuramente quelli del teatro e della danza di cui mi sono occupata io, però anche la musica, seminari con le organizzazioni non governative, la parte accademica con l'Università di Bari e le arti visive e performative che attraversano la città. Per cui il nostro auspicio è che la gente che magari è più abituata a seguire i seminari, a partecipare alla riflessione civile, poi possa anche appassionarsi al teatro e alla danza, e viceversa chi segue il teatro e la danza trovi comunque una riflessione intellettuale che è in continuo dialogo. Noi per oggi anche abbiamo un bel programmino, nel senso che intanto è sempre allestita nel fuori foyer del Teatro Kursaal, la mostra di Greenpeace, ed è una mostra sulle condizioni delle persone che sono nate dopo la catastrofe nucleare di Chernobyl, quindi sull'impatto del nucleare sulle persone. Dopodiché abbiamo anche l'Associazione Libera che riprende l'esperienza di Mauro Rostagno e quindi attraversa insomma un po' il pensiero dissidente sulla mafia, e poi si parte nel pomeriggio dalle 17.30 con gli spettacoli. Alle 17.30 appunto c'è un concerto Presi per caso, è un gruppo di ex detenuti che appunto suonano, ed è un rock molto simpatico. Poi abbiamo alle 20.30 invece uno spettacolo molto importante di danza contemporanea realizzato da Rashidu Ramdam. Lo spettacolo si chiama Luan e Rashidu Ramdam è uno dei più importanti danzatori e coreografi francesi del momento, sta avendo moltissime residenze in Francia. Lui lavora sul rapporto tra gesto corporeo e identità, e lo spettacolo è il racconto del suo viaggio in Vietnam e Cambogia. E a seguire alle 22 siamo molto contenti di avere i Tony Clifton Circus da Roma, che hanno il loro spettacolo Made Igual, che è uno spettacolo comico, irriverente, dissidente, insomma proprio assolutamente anarchico e punk da questo punto di vista. Una cosa che ci teniamo a dire che è in tutte le giornate noi ospitiamo una comunità etnica residente a Bari diversa. Quindi quali sono le comunità etniche che state ospitando? Ad esempio stasera abbiamo gli ospiti delle Mauritius, e loro praticamente ci preparano un aperitivo, per cui i possessori del biglietto possono avere gratuitamente un aperitivo mauriziano con musica mauriziana. Nel decò del Kursaal Santa Lucia abbiamo appunto questo intrattenimento di incontro gastronomico con le comunità. Invece domani, domenica, abbiamo il Sudan, e quindi passiamo a tutt'altro stile, cultura gastronomica. Tra l'altro piccantino, il Sudan mi dà l'idea che la cucina sia abbastanza ricca. Sì, molto speziata. Domani, infatti, ci dica l'ultimo appuntamento. Domani ancora danza con Tarek Alabi dalla Palestina, porta una mostra, Finally I'm No One, e uno spettacolo, Actually I'm Someone, ed è appunto un po' uno spettacolo destinato ai palestinesi che vivono a ridosso della West Bank. E poi per finire la giornata alle 22 c'è un concerto di Vina, e quindi un concerto di una importante cantante rom. Ecco, questo soltanto per il prossimo fine settimana. Insomma, si continua fino al 28 febbraio a Bari, Teatro Kursaal Santa Lucia. Chi si trova a Bari, chi è in Puglia e soprattutto chi si trova lì invece occasionalmente, è un modo per rispettare e per conoscere le altre culture, una risposta a Rosarno. Primavera dei diritti, Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari fino al 28 febbraio. E adesso dalla Primavera dei diritti passiamo a uno spettacolo più leggero, uno spettacolo di cabaret che va in scena la prossima settimana a Roma dal 23 al 28 febbraio, Antonio Covatta Teatro, anzi Te Atro, perché c'è una tazzina di tè, una tazza di tè che accoglie questo artista, questo cabarettista romano, e sentiamo una piccola interpretazione, soprattutto quando fa la parodia di Achille Bonito Oliva, il famoso critico d'arte, trasformato in Achille Bollito Oliva. Io sono un grande esperto d'arte, sono arrivato con un caravan, un lungo viaggio, un caravaggio. Ultimamente ho aderito al movimento nato con Luxuria all'Isola dei Famosi, la transavanguardia. Sono famoso anche perché ho previsto in anticipo parecchi movimenti d'arte. Mi chiamano il mago do Rinascimento. Ho conosciuto personalmente a New York due Dash e Dixon, i macchiaioli. Ho comprato due loro quadri in cambio di uno, due fusti. Ci tengo a dire che non ho mai fatto il caffè con la moca. Sono un espressionista. Io sarò, tu sarai, egli sarà. E anche il futurismo è fatto. Ho molto apprezzato Guttuso, ma anche Zumbrotta, Inzughi e Ronaldugno. A Leonardo ho dato la password per aprire la Cappella Sistina, il codice da Vinci. Ho sempre dato la precedenza a Salvador quando veniva da lì. In casa custodisco gelosamente un originale fatti mandare dalla mamma e una copia di Un Certe Notti, un Morandi e un Ligabue. Certo, anche dei difetti. Se vedo una donna, Matisse. Sono talmente amante dell'arte che se a casa mia accendo il gas spunta un fiammingo. In cantina ho due Botticelli, in forno un pollaiolo con le patate, in lavanderia un Tintoretto e nei pantaloni ho un Picasso, ma è una crosta. E soprattutto amo quel pittore che è amico di tutti i potenti del mondo, Giotto. Sono stato anche al Prado recentemente. Il Museo del Prado è molto bello, ma c'è un'assoluta dominanza di un pittore che veramente scompensa tutto. Allora ho voluto dedicare insieme al Califfo proprio un pezzo al Museo del Prado che fa così. Sì, il Prado è bello, ma metteteci almeno un Raffaello. Ci sono stato proprio l'altra sera, c'è un Velázquez, un Monet e qualche altra tela. Sì, c'è pure un Van Gogh, ma tutto il resto è Goya. È solamente Goya, e dopo un po' è una noia. Sul soffitto Goya, all'ingresso Goya, sulle scale Goya, apro il cesso, c'è di nuovo Goya. E sul marciapiede di fronte c'è pure una bella... Ho sbagliato esempio, maledetta Goya. Ho visto tanta gente nei colori del carnevale, artisti che sorridono, giochi di vino e di parole, fra maschere e costumi che come fiori al sole si aprivano alla luce, cambiando di colore. Circondato dalle note di gente più fanfare, ero vivo e da quel suono mi lasciavo trascinare, dentro angoli di riso e negli occhi della gente, dove il sogno è ancora intero e di finto non c'è niente. Guidato da un miraggio di fuoco e luce. Allora, mercoledì è successa una cosa, siamo entrati in quaresima, almeno per chi è cattolico, ovviamente per i non cattolici no, ma per le persone che credono nella religione cattolica è il mercoledì delle ceneri, quindi si entra in quaresima, 40 giorni dove insomma si dovrebbe fare un po' di penitenza fino alla Pasqua, però c'è qualche rito pagano che questa quaresima la riconosce fino a un certo punto, e anche poi, come vedremo a Milano, qualche rito proprio cristiano, anzi ambrosiano. Ritorniamo alle nostre origini un po' pagane, a Poggio Mirteto in provincia di Rieti. Quello che avete sentito è Stefano Fiori, voce e chitarra del gruppo I Ratti della Sabina, che domani proprio sarà in scena, terrà un concerto a Poggio Mirteto. Buongiorno Stefano. Ciao, buongiorno. Insomma, liberate questo carnevale che è un'antica festa pagana, poi se ne è appropriato il cristianesimo, voi che fate? Lo fate ridiventare pagana? Sì, sostanzialmente sì, è questo quello che succede. È una festa che nasce per ricordare l'autoliberazione del paese, ovvero di Poggio Mirteto, dallo Stato Pontificio. E quando quindi il Podestà di Spoleto volle insomma ringraziare in qualche modo i poggiani di questo regalo che avevano fatto al territorio, gli chiese: ma che cosa volete? Vi faccio passare la stazione vicino al paese? Dice: no, guarda, a noi basta che ci fai festeggiare il carnevale in quaresima. Proprio una sorta di sberleffa a quello che era lo Stato Pontificio, che fino al giorno prima aveva insomma dominato sul territorio. Una ribellione verso il contro il Papa Re, contro Pio IX, l'ultimo Papa Re. Esatto, ma la cosa simpatica è che fu una diciamo ribellione e rivoluzione del tutto pacifica, non ci fu assolutamente nessun tipo di atto violento in questo. Povero Papa Mastai, quante ne ha viste all'epoca. E allora adesso che come fate? Allora, Benedetto XVI, vabbè, ma lui è chiuso dentro Città del Vaticano, lui protegge tutti i cristiani, ma insomma, che cosa fate in questo carnevale pagano? È una festa che si sviluppa nell'arco di una mezza giornata, perché comincia dal mezzogiorno, l'una, fino alle 10 di sera. e nel corso di questa di queste ore c'è il paese che viene totalmente travolto dalla gente. C'è chi si maschera, c'è chi invece non si maschera, c'è chi suona, ci sono artisti da strada, ci sono rappresentazioni teatrali improvvisate magari lungo le vie, e poi anche i ratti della Sabina che faranno la loro partecipazione. Ormai abbiamo superato, credo, il numero 10, mi sembra che abbiamo iniziato nel 97 a partecipare a questa manifestazione, e quindi ci sarà anche il nostro contributo per ricordare questo carnevale liberato. Ma visto, Stefano, il nome della tua band, non è che rapisci qualche ragazza come fecero i romani, no? No, vabbè, noi siamo Sabini, quindi abbiamo subito il rapimento delle nostre donne. Ah, me l'hanno portate via. Ce l'hanno portate via, esatto. Anzi, cerchiamo di riprendercele in qualche modo. Per un carnevale un po' particolare, pagano, un po', diciamolo, antipapalino, nel senso, quando Roma governava c'era lo Stato Pontificio, basta andare a Poggio Mirteto per ritrovare un'antica tradizione, carnevale liberato, abbiamo sentito, con il gruppo I Ratti della Sabina, dalle ore 15 in poi, Poggio Mirteto in provincia di Rieti. Ed è ancora carnevale anche a Milano, dove il rito ambrosiano prolunga la festa fino a domenica. I milanesi, beati loro, ancora in carnevale. Noi qui a Roma siamo già in quaresima. Grandi eventi in tutta la città meneghina, ma soprattutto i clown hanno invaso il quartiere Isola con il Milano Clown Festival, giunto alla quinta edizione. Il tema quest'anno è Miracolo a Milano, il film famoso di Vittorio De Sica del 1951, dove il giovane Totò sognava un mondo dove buongiorno volesse dire davvero buongiorno, e soprattutto dove nous voulons savoir, la famosa battuta dove si andava a Milano con il colbacco. Nicola Accardo è andato a curiosare al Milano Clown Festival per noi. Esiste ancora le clown nel tempo moderno? Oui, esiste ancora. Alle feste aziendali, alle sette commerciali. J'arrive, le mimes trapolières, chocolières, entretien les personnes con l'amour de la semplicité, mentre le persone gonfle de carelle de bambin, le dice: ci fai un balloncino al pampino? Ci fai un balloncino al pampino? Ma come parla? Esiste ancora le clown del tempo moderno? Ma dove andate, milanesi? Perché scappate sempre? Fermatevi! Brutti! Brutti, neri e brutti! Fermatevi! Siete tutti vestiti di nero, fermatevi, perché correte sempre! Ah, il miracolo sta per arrivare! Sì, fermatevi! Allora, provate a non fare nulla se siete capaci, milanesi! Guardatevi per sentire una cosa unica! Provate a sorridere così con gli occhi! Siamo con Maurizio Accattato, in arte Maurice, direttore di un festival che diventa sempre più grande. Beh, insomma, più grande, ci proviamo, siamo al quinto anno e siamo contenti di esserci arrivati, non sappiamo neanche come ci siamo arrivati, a dire la verità, essendo dei clown un po' scalcagnati che cominciano in un quartiere non di periferia, perché mi hanno sgridato, l'isola non è di periferia, però si trova oltre il ponte, di là, insomma, però adesso è un quartiere dove ci sono tutti i grattacieli, dove verde non ce n'è più, purtroppo. E però Dario Fo dice: facciamo un festival che investa tutta Milano, non solo l'isola. Sì, la sua è stata una provocazione più che altro, ma mi ha provocato più volte, la prima volta dicendomi una cosa, quest'ultima è stata forte la provocazione, cari di tutto il mondo, unitevi e venite a Milano, se c'è una città che ha bisogno è proprio questa, bisogna farsi beffa del re, del potere, e prendersi gioco, perché veri pagliacci qua non si sa più chi siano alla fine. Perché ha bisogno Milano più delle altre città? Beh, Milano lo sanno tutti, cioè De Sica ha fatto Miracolo a Milano, che poi è il tema al quale ci siamo ispirati quest'anno, il miracolo, ma si respira proprio il buongiorno che un bambino, un orfanello dice al passante, l'ozioso passante gli dice: perché mi dici buongiorno, che roba lei, che era sta roba, che le avalate, gli dice delle cose milanese, come dice, così, e il ragazzo ci rimane male perché dice: come mai questo buongiorno non arriva? Ecco, noi ci sentiamo nella stessa situazione, in questo momento a Milano si respira un'aria pesante. Buongiorno! Buongiorno! Giovedì a mezzogiorno i giovani volontari del pronto intervento clown Buongiorno. Hanno invaso Piazza Duomo. Hanno elargito abbracci e saluti, poi è partito il festival, 15 compagnie teatrali da tutto il mondo che hanno trasformato il quartiere Isola in una piccola Avignone. Direttamente da Poitiers, il Pleu dans l'Omelette. Dove è la frittata? Piove nella frittata. La frittata è su uno spettacolo per quattro clown, un produttore, una gallina, una carovonna, due revolver, un morto, due dosi di ketchup, una sveglia mancata, un caffè abortito, un paio di scaperte di tip tap, un cotteto, una segata, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Poi ci sono i rich beggars, i ricchi mendicanti, tre gentleman inglesi che hanno finito lo champagne. My name is Bertie. I'm Franny. Ci è finito lo champagne! No! Giocolieri, acrobati, uomini giganti che al posto della testa hanno uno schermo televisivo. Al Milano Clown Festival non mancano le sorprese. Il pubblico dà i voti e sceglie il migliore. Il premio consiste nel 10% di tutte le offerte raccolte. Stasera al Circo Pic, fermata Metro Gioia, la premiazione e il concerto finale. Camminiamo per strade leggere, ma siamo ora e sempre. E adesso annunciamo un'iniziativa del nostro gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, tre volumi che raccolgono tutti gli articoli pubblicati su norme e tributi, L'Esperto Risponde, Plus 24, Finanza e Mercati e Dorso Domenica, disponibili in formato digitale e rintracciabili attraverso un semplice strumento di ricerca che consente di selezionare il contenuto di interesse sulla base di parametri quali data di pubblicazione, argomento, autore o semplicemente attraverso una ricerca a testo libero. Come fare? Beh, basta andare in edicola, perché ogni volume rimarrà in edicola per un mese in vendita abbinata con il nostro quotidiano Il Sole 24 Ore. Ricordate, un anno di sole. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it e potete riascoltare la nostra puntata nel nostro sito www.radio24.it. Vi auguro una buona giornata e un buon weekend a tutti.